bionda io non sono. Porto i capelli neri, porto i capelli neri. Tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, sincera nell'amore. No, mia biondina, sei capricciosa, sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuore. Fatto innamorare, ma tu non pensi a me. Oh, mia biondina, sei capricciosa, sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuore. Per far l'amor di vero cuore. Oh, mia biondina, sei capricciosa, sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuore.